Storie de Noaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. E buonasera anche a te, Antonio, bentornato. Bentornato a te e alle nostre amiche e amici. E salutiamo. E buon anno, naturalmente. Buon anno a tutti, chissà che sia un anno propizio, noi cercheremo di renderlo tale. Appunto, perlomeno nelle nostre ore. Per quanto possiamo noi, naturalmente, sì, certo. Passato buone vacanze? Bah, sì, sufficientemente, diciamo. Ecco. È venuto a trovarti la Befana? Sì, come al solito, diciamo. A me è venuto a trovarmi un'altra Befana, che si chiama Influenza. Questo è comunque, frutti di stagione. Comunque, dai, se n'è andata. Speriamo che i nostri ascoltatori stiano tutti bene, che abbiano passato un buon Natale, un buon Capodanno. E salutiamo anche il nostro regista, che lui sicuramente ha passato delle feste belle col suo Mattia. Bene, allora Antonio. Allora noi naturalmente come al solito ringraziamo le amiche e gli amici e benvenute su bluradioveneto.it. Vi ricordiamo il nostro indirizzo internet www.bluradioveneto.it. Per consigli, proposte, suggerimenti e quant'altro, il numero di telefono è il 346 23 20 033. Ricordiamo sempre la possibilità di ascolto in streaming oppure di effettuare il download, cioè scaricare su PC i nostri incontri. E vi ringraziamo di nuovo per essere con noi. Allora Antonio, stasera abbiamo una personalità padovana, perché stasera si parla di Padova. E abbiamo il giornalista, poeta Ugo Schumann, che ascolteremo per telefono dopo la prima canzone in programma, che è logicamente una canzone padovana cantata da Umberto Marcato ed è intitolata Me sogno Padova. Che mi so partio e da tempo non so più tornare, ma ogni notte dentro al cuore mio sogno e a me città. Mi me sogno Padova e a me vecchia Padova, e ogni notte il cuore me batte go voglia de pianzare. Voglio ben a Padova, come a mamma mia, e al ricordo e a malinconia me strinse il cuore. Piazza dei Signori, El Pedrocchi, gli archi del Saon, ecco i suoi riflessi, i suoi odori, l'acqua del Bacchilion. Mi me sogno Padova e a me vecchia Padova, e ogni notte il cuore me batte e go voglia de pianzare. Voglio ben a Padova, come a mamma mia, e al ricordo e a malinconia me strinse il cuore. Padova, Padova mia, Padova, Padova mia. Thank you. dopo averci ascoltato questo bel brano che ci parla di Padova, introduciamo una grande personalità, una personalità che a Padova è veramente considerata tale, ed è il giornalista, il poeta, un poeta stupendo, ed è il signor Ugo Schumann. Pronto? Sì. Buonasera signor Schumann, come stai? Insomma. Ecco, tanto so che lei è un bravissimo poeta e mi... avevo una poesia che si vede che col tempo mese, però so che ha scritto tante belle poesie, so che il fa tante trasmissioni perché sei un giornalista molto colto, sa, ma mi conta un pochettino. Perché? Dunque, per quello che riguarda le poesie, che ne si è pubblicate in diversi libri circa 200 sonetti e 2000 componimenti, meno che chiamo mai poesia. Le poesie sono robe rare, perché come si può dire, frammenti d'anima, i miei pensieri o sonetti. Il sonetto è una composizione diremo artistica, lo so. Ecco, ma non sempre è poesia. Qualche volta che c'è dentro un po' di poesia, ma è rara comunque che sia bene, non so, ognuno dopo ha i suoi gusti, che non fate tante mie, so, e ho scritto tanto appunto perché sono un vecchio giornalista, pensa che mi sono iscritto all'Albo di Milano e dopo di Padova dal 1949. Se rendi conto? Ecco. Straordinario. Ma lei scrive anche per le quattro ciacque? Anche, sì. Da quando che è nate ho una pagina sulle quattro ciacque, ma dopo sono 40 anni che scrivo per il gazzettino. Ma io qui ci siamo rivolti a lei perché abbiamo sentito parlare veramente bene, specialmente dalla signora Mariuccia Baraldo. Sì, sì. Ecco, la quale, e poi anche del dottor Vittorio Ingegneri. Sì. Ma poi tutti insomma mi hanno tessuto le sue lodi. Quindi come giornalista e anche come poeta, insomma. Quindi, lei è vissuto a Padova, vive a Padova, ha sempre vissuto a Padova? Sì, sono nato in un paese, dopo sono venuto a Padova tanti anni fa, 70 anni che sono a Padova. Ecco, per esempio, sono sposato, ero sposato, adesso sono vivo, ecco, ho una moglie che sta in malattia 30 anni e mi ha ancora sempre a casa con una fiore che si chiama Maria, ecco, ed è morta 3 anni fa. Sul suo letto, sul nostro letto, sulla nostra casa, ecco, tribuà tanto, tanto, tanto, tanto, perché era sta 15 anni, tuvo un nasogastrico, catetere, quindi non parlava, non si muoveva, solo gli occhi si muoveva, basta, e quindi bisognava fare tutto giorno e notte. Una grande prova. Ecco, una prova. Una prova grande. Purtroppo. E grazie anche alla fede, ecco, perché tante prove si supera, per modo di dire, perché resta sempre dentro la fede. E mi avoria, ecco, a proposito di poesia, leggere un sonetto dedicato a Marina, che mia moglie che ha nome Marina. Benissimo. Ecco, del mondo che siamo nati, nel mondo della campagna, dove tutti aveva la sua casetta. Ecco, e ora che ho fatto sto coso. Allora noi ascoltiamo il sonetto dedicato a Marina. Vorria partì una casa piccinina, una casa solitaria in mezzo al vento, che quando spunta il sole alla mattina, l'aguasso sopra il prà si fa d'argento. Un posto tutto nostro, pien de pace, dove si slarga appena era dura, per ascoltare, quando tutto tase, l'eterna sinfonia della natura. E nei sere carghe di splendore, insieme sulla corte a ciel seren, guardare il dì che col tramonto more e il cielo che d'estee fa il suo pien, posar la testa bianca sul tuo cuore per dirti ancora che te voglio ben. Ah, molto bella. Ma me l'avevano detto che lei aveva delle... Ma si trovano questi libri suoi nelle librerie? Altro che queste qua adesso, questo che da qua ho tirato fuori adesso è un libro vecchio che si intitola Fiori de Succa, che è una raccolta di 120 sonetti in dialetto. Ah, Fiori de Succa. Sì, Fiori de Succa, edizioni Panda. Panda. Padova. Quindi, ma si trovano solo a Padova o lei pensa che si... Ormai no, ma si trova solo a Padova, dall'editore se seguono ancora. Ah. Ma no, quasi i libri che ha 10 anni come minimo. Ma mi dica, lei ha scritto tutte poesie in dialetto o anche in italiano? No, perché Le mani di mio padre è in italiano. Sì, molte, ecco, dei libri pubblicati, dai case editrici diverse, anche da case editrici importanti, che ha fatto raccogliendo i miei scritti sui giornali, per esempio sul Gazzettino, sul Corriere della Sera, sul Resto del Carlino, su tanti altri giornali, L'Avvenire d'Italia, La Difesa del Popolo, Nuovo Scintille di Chioggia, scrivo per tanti giornali, adesso sono mai vecchio, ma... E quindi li ha raccolti, e che ne sei, una decina di titoli in italiano. Sì. Sempre dei racconti, e che qua bisogna andare da Panda, bisogna andare da diverse case editrici. E dopo che ne sei un'altra ventina di titoli, che ha tutti i racconti, raccolte di racconti in dialetto. E pensa che solo sul Gazzettino, che ora rubrica L'Orto di Casa, che ha 40 anni. Ah, ce l'ha ancora questa rubrica? Sì, ancora, ma sul Gazzettino di Padova però. Ho capito. Ancora, questo che ha ogni domenica, che c'è un piccolo racconto, ed è qui a rubrica, e ha raccolto 3 libri, in parte tira fuori da chi racconti là. E che i Lagene è uno che si chiama L'Orto di Casa, che ripete il titolo della rubrica, e un altro che si chiama Il Brodo di Famiglia, che sarebbe stato per poco L'Orto di Casa, e dopo un altro, una serie di racconti che riguarda la campagna, il mondo della terra, dei campi, dei contadini della volta, con tutte le sue tradizioni, che viaggia da paese a paese, come i dialetti che cambiano da contrada a contrada. Ah, ma da voi anche a Padova, da paese a paese, i dialetti cambiano, vero? Altro che cambia da paese, adesso il dialetto si usa poco, perché ormai la scolarizzazione ha cancella un po' queste robe, dice solo che Quattro Ciacque, per esempio, è l'unica rivista che tratta ancora il dialetto, ma è per amatori, perché tanti vocaboli del dialetto di 50 anni fa non è più conosciuti, non è più in uso, non ha più senso. Se adesso noi altri parliamo di rope rara, e chi si che lo sa? E cosa vuol dire? Ecco, l'erpice. Ah, l'erpice. Ecco, in dialetto si chiamava rope rara, ma non era motorizzata, gli era tirata le vacche, quindi gli era tutta un'altra faccenda. E cambiava, ma i dialetti variavano da paese a paese, e nelle città come Padova, sì, e variava da una parte all'altra della città. Addirittura perché una parte della città finiva e finisce ancora al Porteo, dopo una volta che era il porto, quindi che era la comunicazione con i canali che metteva a Venezia. C'è una canzone anche intitolata Il Porteo. Sì, anche una canzone, Delizia Oliosi. Sì, Delizia Oliosi, che è stata una grande poetessa anche lei padovana, sì, vero? Sì. Ma voi eravate una bella squadra lì, perché so che appunto la Mariuccia me ne parla sempre. Dice quasi tutti morti, insomma. Solo che era una bella... Pensa, Che mi faceva, ecco la storia che dovrei conoscere, mi ho fatto tante volte da membro di giurie e anche da presidente letterario, ma anche nazionali, no qua del paese, ma qua di Padova, per esempio, tante volte con Biagio Marin, Diego Valeri, sì, ecco, chi faceva dei concorsi di poesia per Abano Terme, per Quattorno, per dargli un titolo, e dopo si andava a mangiare, ecco, come si fa, tutto finisce in gloria. Ah, lei ha conosciuto Diego Valeri? Altro che. Ah, perché a me piace molto Diego Valeri. Credo che sia un poeta così insieme. Io scuola le spese che nel 38 e le sta anche per poco tempo, che dopo lo manda via subito per via della politica, ma le sta anche direttore del Gazzettino. Addirittura? Sì, sì, perché ora lo stampava a Venezia, lui era da Piove, dopo stasera a casa a Venezia, e quindi è un professore che ha fatto un mucchio di robe, di traduzione soprattutto, ma anche tante poesie belle. Lei, per esempio, sul Corriere della Sera, diceva che lei scrive anche sul Corriere della Sera, ha detto, no? Sì, ma negli anni passati parliamo dei tempi di Montanelli. Ah, addirittura ha conosciuto anche Idro Montanelli. Ma tutti, ma Biagi, ma tutta che generazione ha. Montanelli era più vecchio, ma Enzo Biagi, Francesco Fuschini, tanti altri che adesso non mi viene in mente. Ieri giornalisti che lavorava per i giornali diversi, e ora mica corrispondeva per il Corriere e l'Avvenire d'Italia. Sì. E aveva l'Avvenire d'Italia una volta, che era il giornale più importante dei cattolici. Sì. Ecco, la sede a Bologna. Sì. Proprio vicino a quella dell'Unità. E quindi quando i corrispondenti si riuniva a fine del mese per tirare i schei, ecco, si incontravamo tutti su un unico bar che gli era davanti, e quindi si conosceva tutti, che dopo questo qui che ha fatto carriera come Biagi, come tanti altri. E anche come lei, tutto sommato. No, fatto... insomma, dai. L'ultimo della rola. Ascolta, signor Schumann, ci fermiamo un momentino per ascoltare una canzone, poi riprendiamo la sua storia, va bene? Va bene. Allora, la seconda canzone in programma è intitolata La voglia di sognare, che è cantata da Ornella Vanoni, e la dedico a due ascoltatori molto molto molto assidui, specialmente l'ascoltatrice amica mia che si chiama Bianca. Bene, allora, tutto per loro, La voglia di sognare con Ornella Vanoni. Passato. Mi piaceva il tuo coraggio, la pazienza del tuo amore, e con te mi son trovata bene a vivere, a pensare. Ed inverno quante sere siamo stati ad inventare per il grande. Era bello andare avanti con niente, ma insieme. E la voglia di sognare è difficile a passare, anche dopo tanto tempo io ti vedo come allora, un po' allegro, un po' scontento, un po' tenero e violento, di parole mica tante, ma io non me ne lamento. Solo di giornate ad aspettare, un minuto dopo l'altro, perduti ma insieme. Eccoci di nuovo in studio e di nuovo con il nostro signor Suman. Signor Suman? Sì. Allora, lei mi diceva che è nato a Conselve. Sì. Quindi è un campagnolo, diciamo. Sì, sì, sì. E quanto è rimasto a Conselve? Pochi anni di infanzia. Ah, ho capito. Quindi la sua infanzia lei... Ma dopo ho sempre fatto la senda su nonni, nonni, dei parenti. Anche il modo buttato tutta la guerra è un po' là. Quindi lei ha vissuto proprio la vita della campagna, sì, la povertà? La campagna, che altro che è ora che era la crisi, altro che adesso. Ah, dice la crisi, allora c'era la crisi, vero? La sobrietà da una volta. Non ho idea di cosa che sia la fame qui che scrive anche adesso della crisi. Neanche la minima idea. Non c'è gli stessi parametri. Appunto. Esattamente. E cos'è per quello che non c'è possibilità di contatti anche col dialetto, che dici che c'è una lingua, non è vero, non c'è mai stata la lingua veneta. I dialetti, le lingue tribali, ecco che andava bene quel tempo era, ma adesso si sta superando. Nel dialetto tutte le novità del dopoguerra, che riguarda la tecnica, e si chiama con stesso nome, non sei come quando durante la guerra o prima della guerra, quando che era in un paese, se che era il telefono, ora gli chiamava il telefono, perché non lo sapeva nessuno. Adesso ho a tutti, quindi se dice telefono in dialetto come in italiano, e così anche computer, mouse, tutte che robe là, insomma. Ci siamo italianizzati, no? Ci siamo italianizzati anche perché non c'era più necessità di traduzioni, ecco, perché si vedeva era robe risapute, robe era. Allora pensa che quando ho fatto il militare nel 1949 scrivevo per analfabeti, che ne erano tanti, che avevamo l'obbligo, come che avevo detto, scrivevo già per i giornali che tempo era. E quindi comprava macchina da scrivere. Quando sono arrivato era uno dei pochi che sapeva operare la macchina, mi ha subito messo in fureria, e là che era l'obbligo di scrivere e leggere le lettere che arrivava per i non scriventi, analfabeti praticamente, e che ne era allora, parliamo del 49, anche da Padova a città, via Quente, per esempio, per dire, se io conosco Padova, vicino al Santo, ecco, sì. E quindi era dopo nei paesi, eccetera, e era gente che qua siamo sotto la pendola, quindi sente anche l'ora, la era di qui che il parroco che scriveva e che leggeva le lettere, quindi guarda da che mondo. E adesso però, se posso fare un piccolo intervento, abbiamo un sacco di analfabeti di ritorno. Il professor Tullio De Mauro, in una recente ricerca così, parlava addirittura di 39 milioni di italiani che non riescono a raggiungere la sufficienza in termini espressivi. È una roba che bisognerebbe che qualcheduno che fosse in carico, una delle prove sta una tragedia. Chiedo scusa, un scandalo, sì. Non so, anche televisivo adesso, scandalo. Il giornalismo vive di anera, se che chiama. Esattamente. E quindi le sfruttano il dolore, la morte, fanno praticamente scuola di delinquenza, di violenza, ecco, solo per ciappare schei, perché adesso i giornalisti. Montanelli che lì ha fatto scampare tutti, una volta si scriveva 15 righe, dovevano essere perfette. Come Buzzati, corrispondente, come eccetera. Buzzati, sì. Poi nell'italiano guai se era una virgola fuori posto, anche gli accenti, per dire. Adesso che ho fatto i concorsi per magistratura in via degli Agaboni fuori tema in italiano, che è scritto molto di errori, esatto, non gliene trovava neanche i 50 che andava in cerca su 350, non si riuscì a trovarli. Drammatico. È un altro mondo. Vero. È impossibile fargli capire anche a me, sono andato per tanti anni in giro per le scuole, anche i licei, eccetera, fai qualche domanda ai tuoi così per renderti conto, niente, ero completamente vuoti, adesso non insegna neanche più niente. Il Natale e poesie anche nei medi, le scuole medie, e gli insegnava una poesia. Mi imparava a memoria. E questo rinforzava la memoria, giustamente. Certo. Adesso non insegna neanche più cosa che sia il Natale, è diventata una festa dei giocattoli, di consumismo, consumismo, sì, perché... Ma lei allora, in che anno ha cominciato a scrivere sui giornali? Nel 48, magari c'è Massimo, siccome ora che era Azione Cattolica, mica aveva 19 anni, 20, e gli era delegato editore della Azione Cattolica di un mandamento, perché gli era tutto divisa la diocesi in mandamenti, e ora gli faceva dei convegni a Padova, nel Duomo, in centro, col vescovo, eccetera, e ora là, durante quei convegni, ogni delegato parlava. E ora io mi sentivo parlare il direttore della difesa del popolo, che era il giornale, diremmo, della diocesi, che gli era presente, si chiamava Monsignor Cannella, Don Francesco, e mi sentivo, e ora gli ha detto al vescovo che lo sa in testa, chiami o dire che venga qua. E ora mi ha portato nella direzione del giornale e subito mi ha dato una rubrica, La parola ai giovani, ovviamente in italiano, e ogni settimana scriveva un pezzo. Era una roba seria, un pezzo che riguardava la gioventù di quel tempo dal punto di vista della fede, e ora era tutta un'altra roba. Adesso non vede più nessuno di qui che va in chiesa che sa i sacramenti, che devo dire i comandamenti uno derivato. Purtroppo adesso la vita è cambiata, ma so che adesso lei però fa qualche trasmissione, sì, so che di cosa parla, per esempio. Non so se adesso oggi abbiamo parlato di questa cosa, di sua vita così, ma per esempio, non so se lei va in un'altra radio, in un'altra televisione, quali sono gli argomenti che preferisce trattare? Solo della letteratura, ma quella che non conosce ormai quasi più nessuno, della vita, ecco, perché la funzione della letteratura, dello scrivere, è che solo un scopo se sa scrivere la vita degli uomini nei momenti particolari nei quali l'uso è testimone oculare, anche della guerra, dei partigiani, tanti che ha scritto libri non li ha neanche mai visti, ma mi ho visto i rossi fusilare i neri fusilare i rossi, e quando mi abito a Padova vicino che c'è un ponte di quattro martiri, e lei ecco, e quel ponte là io chiamo di quattro martiri perché nel 44 i cacciapari di qui che gli era partigiani, per modo di dire, perché gli era solo tosi che non vuole andare a militare, ecco, e gli ha occupato il picà, invece dopo non gli era qui, che dopo gli ha messo i nomi di altri, insomma, e gli ha prima fusilare e dopo picà il ponte, e non gli era in Bualila, e ora obbligatoriamente se vuoi studiare. E ne faceva passare sotto il ponte perché vedessimo come muore i nemici della patria. Che pochi che si ricorda. Ecco, dopo quando che si venuto il Duce a Padova, nel 38 si venuto il Duce a Padova, noi siamo stati una giornata e mezza in Prade Avae, i Balilla, tutti in divisa, era tanta gente che non si capiva niente, il Duce non l'ho neanche visto perché gli era distante su un palco, ecco, ma ieri non so se era presente il Prade Avae a Padova. Noi non siamo di Padova, siamo appunto, comunque che c'è il Prato della Valle, c'è enorme, c'è il più grande prato che c'è in Italia, e che c'è un'isola che chiama l'isola Memmia con un canaetto tutto attorno al centro, noi ieri tutti intorno là. E quindi per fare la pipì e altre robe ne toccava a farla dentro il testo canaetto davanti a tutti, perché non gli era posti per dire cosa che ne ha fatto tribuare, per sentire niente, ma che gli era sto mondo qua e ora. E la gente di quel tempo là, specialmente i contadini, avevano simpatia per il regime, perché loro non conosceva niente, non sapeva la dittatura neanche cosa che era, infatti subiva soltanto i letterati, che li poteva scrivere più chi voleva, oppure i professori universitari, qualcuno, ma se no il popolo lavoratore non sapeva niente. No? Ci sarebbe tanto appunto da dire. Ascolta, ci fermiamo ancora un momento per una canzone e dopo facciamo l'ultima, va bene? Bene. Allora, ti ascoltiamo la terza canzone, no? Che è cantata da Gianna Nannini ed è Amandoti. amarti ma fatica mi svuota dentro qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti ma fatica mi dà malinconia, che vuoi farci, è la vita, è la vita la mia. Amarti mi consola le notti bianche, qualcosa che riempie vecchie storie fumanti. Amarti mi consola, mi dà allegria, che vuoi farci è la vita, la vita la mia. Amami ancora, fallo dolcemente, solo per un'ora, perdutamente. Amandoti, eccoci di nuovo in studio e ancora una volta con il nostro signor Ugo Schumann. Signor Schumann? Sì. Eccoci qua di nuovo con lei per l'ultimo, per l'ultima tranche, insomma, ecco. Allora, lei desiderava leggere un sonetto. Sì, un sonetto che è già, per chi che ascolta, che ha bontà di ascoltarlo, e il perché ho scritto per una vita intera. Ecco. È uno dei, fa parte sempre delle, dei libri che si sta pubblicando. Non leggo mai robe nuove, sempre tratti da libri. Ma adesso lei non scrive più? Sì. Ah, scrive ancora? Ogni domenica sui gazzettini, ogni mese su Quattro Ciacque, ogni domenica, ogni 15 giorni su Difesa del Popolo, sua nuova scintilla. Ho capito. Ho ancora i miei, finché posso conservo, perché come si può dire, piccoli angoli del mondo giornalistico. Eh sì, ma più che altro anche sui giornali, di cosa parla? Dei fatti anche qui di Padova? No, mai cronaca. Mai cronaca? Mai nera. Mai cronaca. No, nera, ma magari. Ma neanche cronaca, mai avvenimenti. Parlo sempre dei momenti particolari. Adesso per esempio nell'orto di casa, se c'è una festa come Natale, parlo su Natale, io pubblico una poesia come ogni anno, che chiama ora poesia, mica dico componimento, che in esclusiva ogni anno per 40 anni, per Pasqua e per Natale, parlo della festa così, e se no faccio un racconto. Ho un capito. Racconto di una persona, di un personaggio. Ho una capito. Volta. Adesso parlerà del carnevale o no? Anche del carnevale, ma una volta nei tempi miei che era il carnevale a Venezia, però, ma poi paesi che era qualche maschera che girava, qualche poro camper, cioè, per carità, si vestiva da ebete, che era già contadino, e andava a carità e cantava qualcosa e faceva che roba. Ma i balli, per esempio, nei paesi erano proibiti, la chiesa prima. Sì. Quindi non c'era, e poi non c'era neanche le possibilità economiche da fare le feste che fa adesso. C'era un altro mondo, insomma. Antonio, cosa dici tu? Che la prossima volta ci sarà da leggere qualche bel racconto? Del ma nostro... i racconti non si può leggerli, perché per quanto piccoli chi sia, chi sia sempre brevi, mi racconti, ma è già due o tre pagine, quindi avevo un quarto d'ora, 10 minuti, solo per leggere un racconto, e dopo bisogna, mi alleso qua tanto per farvi contenti gli altri, ma io non leggo mai le cose mie e manco ancora quelle di altri, perché per leggere bisogna essere capaci, meno su buon leggere ben. Ma noi siamo capaci, vero Antonio? ci proviamo. Ci proviamo, va bene? Ok, allora sentiamo un sonetto. Ecco, cosa che è il frutto del mio lavoro, solo dei segni. Gospampanà, migliaia di sonetti, a volte fatti solo su richiesta, per varie occasioni, anche per preti, soltanto per segnare un dì di festa. Un metro che me nasce dall'interno, pronto e combinato, e in sta maniera parlo del paradiso, dell'inferno, dell'uomo e della vita su sta terra. La poesia che entra raramente, perché è una merce prestigiosa, più rara della perla d'Oriente, che viene da una sorgente misteriosa. Mi contento del mio poco niente, scrivo versi come i fosse prosa. A volte, sbrancadei dei più cari, li lascio in giro come i nostri pegni, quando giocaimo attorno dai selgari, per dire che so passare solo dei segni. Ecco, molto bello, molto bello, molto bello. Comunque, io vorrei chiederle una cortesia, se ce l'ha sotto mano, se mi legge le mani di mio padre. No, che hanno la gomma sotto mano. Non ce l'ha sotto mano? No, le mani di mio padre no, è ancora in italiano. Sì. Ah, molto bella, molto... Ecco, è il padre della voce, anche qua che si dia una storia da fare. Con mio papà, per esempio, non mi ricordo che non cambiava mai un vaso, neanche quando sono partito per militare, neanche quando che gli era in pericolo. Mia mamma sì, mi dava tanti basi e tante sberle, che siamo in su... uomini solo per le volte che abbiamo ciappato, le volte che rispettavamo, ecco, per esempio, eravamo abituati a obbedire i genitori, e quindi chi che andava a militare come me non ne faceva fastidio la disciplina, perché eravamo abituati, ma se togli adesso gli andessi a militare. Neanche pensare. Allora, signor Suma, ormai il nostro comincia a scadere un po' il tempo. Io intanto, Antonio, la ringraziamo di essere stato con noi. Grazie mille. Come papà, a nome Antonio. Ecco, vedi, così ha trovato anche un Antonio anche qua. Sì. Così. Un'omonimia di quelle interessanti e impegnative, diciamo, ecco. Vabbè, se uno pensa a santo, sì. Certamente. La prossima volta magari parliamo anche di Sant'Antonio. Sant'Antonio del 13 giugno, ma dopo c'è il 17 gennaio, c'è anche Sant'Antonio Abate. Sì. Abate, una volta noi sapeva in campagna che l'abate è il priore di un convento, si chiamava abate, no? E ora, io quando si dice Sant'Antonio abate, ora, cioè, pensavano che Sant'Antonio battesse le ore. Sì, ora le campanine. Sì, capito. Signor Suman, allora, con tanti ringraziamenti. E una promessa lei ci da fa, che tornerà ancora con noi. Basta che sia vivo. Ci fa molto piacere se ritorna. Comunque, noi ci risentiremo. Va bene. Va bene? Grazie mille di tutto. Nuovo. Grazie, buon proseguimento. Sentiamo e grazie ancora. Saluti. Ecco, così abbiamo ascoltato il nostro poeta, giornalista, Ugo Suman, che avrebbe tantissime cose da raccontarci che non finirebbe più, mamma mia, ma veramente sarebbe non so, anch'io starei ad ascoltare sempre queste cose, cosa dice Antonio? È un'enciclopedia vivente, decisamente. Vero? Sì. Sarebbe veramente da fare delle trasmissioni proprio per sapere come era la vita di allora, perché ha dei ricordi stupendi. Anche la memoria è fondamentale, lo ribadisco in ogni occasione. Ma hai ragione Antonio, perché se non c'è passato non c'è neanche futuro. Assolutamente vero. È vero? Certo. Allora, cosa dici, ci ascoltiamo la quarta canzone? Va bene. Allora, la quarta canzone è intitolata La mia libertà ed è cantata da Franco Califano. Ho una chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà. Se sono triste canto piano, se sono in forma suono forte, così affronto la mia sorte.

usa ancora ne a metà dell'Ottocento, che vuol dire cultura del popolo, ma che spesso ga tradio il significato originale. Mi preferisco parlare de cultura contadina, che ancora partenersi in bon la chiama cultura orale, distinta anche se non proprio separà da quello che si intende per cultura popolare. Le due definizioni non significa sempre la stessa roba. Me metto nel contesto del discorso con ricerche su testi che a volte faccio mie, tanto sono in sintonia con quel che leso. E più delle volte tolgo in esame intuizione e considerazione che non credo sbagliare, perché non le me viene dall'alto de una cattedra, filtrata mie interpretazioni diverse fatte a tavolin, mentre l'eventuale documentazione non è più in circolo o peso, la gestanda a persa. Siamo a cavallo, fine di un secolo, gli unici depositari di tanta ricchezza la si trova tra i vecchi confinai nelle case di riposo, grande supermercato de sta cultura. La mia origine contadina mi ha insegnato a rispettare la cultura orale e considerare quella scritta come alfidenza, perché, come da documenti, diceva i nostri vecchi, governo ladro piove. Par fin de a piova, il geratenu responsabile tra le altre disgrazie il governo, le quali le sono tutte scritte, scominciando dai tasse, a cartolina de precetto, al boletin matrimoniale, senza perdere de vista l'epitafio, poi finiva sempre col dire carta, pena e caramaro, i te conta e paie in tel paiaro. Ricordemose che i nostri vecchi se de considerare libri viventi desta cultura, conservane a memoria coettiva. Per ogni vecchio che more se un tocco de archivio che va brusà. Per questa ragione l'uomo è l'unico essere sulla terra a vivere, pio manco, oltre 30 anni dopo il periodo fecondo, perché da millenni si tramanda coa parola, dita e ripetua da una generazione a st'altra, usi, costumi, religion e le esperienze sull'agricoltura. Anco se ga tutto roversà. La natura se immande la tecnica che ne insegna a sfruttare qualità e quantità, tutto, tanto, beo e subito, passando de sora ai cicli naturali della vita. Ma attenti, la natura non ha setoie de soia, se non vuoi che, presto o tardi, la gabbia a vendicarsi. Ma guarda che la Mariuccia è anche molto una sintesi molto perfetta. Sagace, veramente sì. È anche ha un bel umorismo. Ma notevole, decisamente. Ma io sì. Ti dico, la stimo tantissimo proprio. Comunque, leggi qualcos'altro? Sì, volevo leggere a livello? Due poesie. La vita in campagna e Canterini de Possonovo. Sono sue o? Sono sue, mi direi. Perché so sì. Che lei sì. Era una grande amica. No, queste non hanno, amica. Non hanno citazione, quindi sì. Sono sue. La vita in campagna. Oh, come se bella la vita in campagna, con l'aria che tira la sena cucagna. Tra il verde dei campi e l'erba dei pra, si vive più meglio che nella città. Cantemo, pensieri non genemo, ma solo godemo la tranquillità. La vita nei campi la ne porta il vigore, la forza nei brassi e la gioia nel cuore. Nei brevi riposi stemo la ben sentà, sotto l'ombria de un mucio de fen. Cantemo, pensieri no genemo, solo godemo la tranquillità. Tornando a sera dal nostro lavoro, una fetta de saiado e un goto de moro, sentimo a forza de novo tornar. Allora se mettemo da novo a cantar. Cantemo, pensieri no genemo, ma solo godemo la tranquillità. E la seconda, Canterini de Possonovo. Noi siamo i Canterini de Possonovo. Ne piace stare sempre in compagnia. Cantemo note in di in ogni ritrovo. Ne piace stare sempre in compagnia. Cantemo. Navegae capocastro gamandai so Canterini. Non voemo cittadini che ne canta una canzon. Da piazza al navegae siamo tutti cantarini e non voemo cittadini a cantare a canzon. A sera tornando dal nostro lavoro, una fetta de bianco e un goto de moro, se vive più meglio che ne a città. Cantemo, pensieri no genemo, ma solo godemo a tranquillità. Ecco, questo è un po' una summa tra poesie e citazioni di un tempo andato, purtroppo prematuramente scomparso. E adesso ci sentiamo. Direi la prossima canzone, prima della chiusura, diciamo, ecco. aveva la mia età, 10 anni o poco più, e un giorno la sposai per gioco. La prima delusione fu quando mi lasciò per inseguire un aquilone. Poi venne un giorno che non scorderò mai più, mio padre andò per la sua strada. L'amore o l'avventura, non so, però fu dura, e ad una stella dissi no. Non voglio innamorarmi mai, il cuore mio lo sa, un vagabondo è l'amore, tutto prende e niente dà. Ma tu chi sei, ragazza mia? È inutile che stai in tutti i sogni miei. Non voglio innamorarmi mai, è triste mai così, un vagabondo è l'amore che per caso adesso è qui. Perché per far l'amore si muore d'emozione, la vita in fondo è una canzone. E se il mio cuore batte più forte accanto a te, non so spiegarmi che cos'è. Non voglio innamorarmi, ma io mi domando se un sentimento, quando sboccia, viene a dirlo proprio a me. Ma tu chi sei, ragazza mia? Perché senza di te scompare l'allegria? Non voglio innamorarmi mai, no, so che morirei. Un vagabondo è l'amore, fondo agli occhi tuoi. Un vagabondo e l'amore vive in fondo agli occhi tuoi. Ecco qui, allora Mariuz si diletta anche a come dire, tradurre in dialetto padovano, oltre alle favole di La Fontaine, delle poesie, tra le quali una bellissima è La Livella, A Livella anzi, di Totò, A Livea. Tutti gli anni è il 2 novembre che è l'usanza per i morti di andare in cimitero. È un dovere, quasi una creanza, lo che modo aver tutti sto pensiero. E come tutti in questo giorno che ricorda sta triste circostanza, anche a me che vago e metto i fiori torno alla tomba della vecchia zia Costanza. Mesetto casto ha un'avventura dopo aver fatto il tristo omaio. Sant'Antonio, se che penso, che paura. Ma dopo mi son fatto anche a coraio. La storia seria questa, stai ascoltare. S'era quasi l'ora della chiusura e mi che me avevo ormai moccare go butta l'occio su una sepoltura. Qui dorme in pace il nobile marchese, signore di Rovigo e di Belluno, ardimentoso eroe di 1000 imprese, morto l'11 maggio del 31. Un stemma e una corona, soprattutto, sotto una croce fatta a lampadine, 3 massi de rose e una fassa a lutto, candee, candeoti e sie lumine. Proprio tacà sta tomba de sfiorato, che c'era un'altra tomba picoeta, che non aveva neanche un fiore mato, par segno la aveva una croseta. Sora a croce neanche se leseva, toni degli esposti scoasin, guardando a che peccà che me faceva, sto morto senza l'alba de un lumin. Ecco a vita, fra de mi pensavo, chi che ha avuto massa e chi mai niente, sto poro cande omo, anche se bravo, ancora in st'altro mondo è un pesente. Finché mi gero là sopra pensiero, se già era fatta quasi mezzanotte, me son catà sarà nel cimitero, pien de paura in mezzo a tombe ignote. Quando de colpo vedo da lontan d'ombre venir avanti per la via, sto fatto co pensà, l'è proprio strano. Soi sveglio, dormoi, o se a me fantasia. Altro che fantasia, c'era il marchese, col tubo a caramea e col pastran, st'altro da drio de lu un bruto arnese, onto, spussoente e con la scoa in man. Qui ho deserto se Toni Brugansaro, quante fatiche in vita luga fate, mi non capisco, qua non vedo ciaro, i morti fai de notte e passeggiate. I gero ormai da mis quasi una spana che il marchese se ga fermato boto e se volta è come uno che se incana e che siga il poro Toni. Giovanotto, da voi vorrei saper, vile carogna, con quale ardire e come avete osato di farvi seppellir per mia vergogna accanto a me che sono un blasonato. La casta è casta e va sì rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura. La vostra salma andava sì inumata, ma seppellita nella spazzatura. Ancora oltre sopportar non posso la vostra vicinanza puzzolente. Fa d'uopo quindi che cerchiate un fosso tra i vostri pari, tra la vostra gente. Signor marchese, non ha se colpa mia, mi da se non ho che garia fatto un torto. Se me moiere gasta sta mania, cosa potevo far se ero morto? Se fosse vivo, per farvi contento, metteria sui me ossia rinfusa e senza far gedrio neanche un commento, me trovaria senz'altro un'altra busa. E cosa aspetti, o turpe malcreato, che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? Se io non fossi stato un titolato, avrei già dato piglio alla violenza. Ma questa se proprio incoscienza? Basta, marchese, mi me son stufà. Guarda che se perdo pazienza, me desmentego che semo morti già. Ma chi credito de essere mai ti? Quadrento semo ormai tutti compagni? Morto te si ti e morto su anche a mi. Sei inutile che te fassi tanti anni. Lurido porco, come ti permetti paragonarti a me che abbi natali illustri, nobilissimi e perfetti, da far invidia a principi e reali? Ma che Nadae, Pasqua, Epifania, vuto metterti in testa, Pimpinea, che ti si mai ha de fantasia? La morte, caro mio, se n'alivea. Qualunque uomo tu ti sa che come arriva dentro qua, lasciando il mondo, el perde coa vita anche il suo nome. Sta quieto e ora, e calmo te rispondo. Non stemo a baruffar senza motivi, e come in vita offendarsi e far torti, assai far ste paiasade ai vivi, femo un poco i seri, no altri morti. Bravo Antonio. Bella però. Era sempre straordinaria. Il principe era un grande, decisamente. Sì, e grande Mariuccia. Comunque grande è stata tradotta benissimo. Molto bene. Vero? Molto bene. Veramente molto bene. Siamo arrivati quasi alla fine. Siamo proprio in chiusura, in dirittura d'arrivo, diciamo, chiusura sì. di serata. Allora noi cosa facciamo? Salutiamo tutti. Salutiamo e ringraziamo ancora una volta per la pazienza e speriamo di potervi dare ancora, come dire, per l'anno a venire e per chissà quanto, speriamo, un speriamo. Momento di così, di, un di momento così, di sorriso, tranquillità e di sorriso. Sorriso. Ecco. Allora Antonio, ti ringrazio come sempre, ti Io saluto. Ringrazio te e l'ascoltatrice e gli ascoltatori. Ecco, salutiamo il nostro regista che ha sempre tanta pazienza. E appunto assieme a Eddie regista e Antonio vi saluto affettuosamente e vi dico come sempre ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.